Come stiamo? Si vede che stiamo bene, siete proprio belli. Grazie, magari sarebbe anche un po'. Siete proprio belli! Ok. Questa in realtà era la risposta proprio quella che volevo. Hanno detto anche tu. Grazie. Grazie mille. È bellissimo stare qui. È per me condividere la parola di Dio, condividere quello che Gesù ha messo nel mio cuore per la mia vita prima di tutto e poi per la nostra vita come Chiesa è uno dei più grandi onori. Perché se voi ci pensate, è davvero un miracolo. È un miracolo che Dio in persona, se così possiamo dire, parli al nostro cuore e sia interessato alla nostra vita. E si è interessato a non lasciarci nella condizione nella quale siamo, bella o brutta che sia, ma Lui ci vuole fare crescere, Lui ci vuole far avvicinare sempre di più a Lui. Lui vuole che ognuno di noi assomigli sempre un tantino di più al nostro Creatore, a Lui stesso. È per questo che noi crediamo che Gesù è vivo, perché parla. Un Gesù che è morto, non parlerebbe al nostro cuore, non trasformerebbe le nostre vite, non ci sarebbe niente da dire riguardo un Gesù che è morto. Ma invece ci abbiamo un sacco da dire, ci abbiamo un sacco da scoprire del nostro Dio, perché Gesù, che è Dio, è vivo. E questa è la notizia più bella che tu potevi sentire questa sera. Se ti devi scordare tutto di quello che io ti dirò, spero di no, perché insomma ho studiato duro, però se vuoi dimenticarti tutto, per piacere, non dimenticarti questo, che Gesù è vivo. Non importa che tu lo senta o meno, e in realtà non importa neanche che tu ci creda o meno, perché la verità, questa verità non è relativa, non cambia in base alle tue emozioni, non cambia in base ai tuoi sentimenti, non cambia in base alle tue situazioni, ma Gesù è vivo. E qui ci dobbiamo mettere un punto e possiamo fare anche un applauso davanti a questa verità che è meravigliosa. Gesù è vivo, era vivo ieri, è vivo oggi e lo sarà in eterno. Amen? Ed è proprio per questo. Oh, mi mancava tanto predicare, lo potete sentire. È proprio per questo che oggi leggeremo un passo, una storia che è sicuramente conosciuta dalla maggior parte qui. Una storia che è scritta nella Bibbia, nella parola di Dio. E siccome Gesù è vivo, impareremo che cosa Lui ci vuole insegnare di questa, attraverso questa storia. Ci siete? Vi piace l'idea? E la storia che leggeremo si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, e sono 10 versi. 10 versi che io ho sempre saputo, da piccolina, ho sempre conosciuto questa storia. C'era anche una bella canzoncina che fa: conosci tu Zaccheo? Tanto piccolo. Ma sì. Ok, basta Antonio, tutta è un po' lunga questa canzone. Zaccheo, il nostro amico Zaccheo. Oggi lo conosceremo un po' di più. E quindi se hai la tua Bibbia, puoi aprirla adesso oppure puoi seguire dallo schermo. E stiamo leggendo da Luca 19, versetto 1, dal versetto 1 al versetto 10. E dice così: poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava. Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla e perché era di piccola statura. Io lo posso capire. Molto bene. Allora corse avanti e salì su un sicomoro, che è un albero, per vederlo, perché egli doveva passare di lì. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, vide Zaccheo e disse: Zaccheo, scendi giù, in casa tua verrò. Perché la canzone è letterale, no? Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano dicendo: egli, riferendosi a Gesù, è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Verso 8. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, e questo se è molto retorico, perché aveva defraudato molte persone, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Verso 10. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Il figlio dell'uomo, Gesù, è venuto su questa terra per 2 cose. Per cercare e salvare ciò che era perduto. Io voglio incominciare proprio da questo, che è l'ultimo verso. Ed è un verso che ci riassume un po' tutta quella che è la missione che Gesù è venuto a fare su questa terra. Gesù è venuto per cercare e per salvare chi era perduto. Gesù non è venuto per giudicare chi era lontano da lui e non è venuto per dare una pacca sopra la spalla a chi invece viveva secondo la sua volontà. No, no, proprio il contrario. Giovanni 3,17 dice: poiché io sono venuto non a condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. Tutti i Vangeli, dal primo al quarto, in realtà tutta la Bibbia ci dice che Gesù era interessato e cercava intenzionalmente malati, prostitute, tiranni, ladri, persone che erano estremamente lontane da lui, persone che non erano indecise se credere o non credere in Gesù, persone che proprio non ne volevano assolutamente sapere nulla di Gesù, erano distanti anni luce, ma Gesù è venuto per cercare e per salvare, per accogliere quelle persone. Proprio quello che è successo a Zaccheo. Quanti nella propria vita possono affermare che sono stati cercati da Gesù, che sono stati trovati e che sono stati salvati? Io lo posso affermare. Ed è bellissimo vedere quasi tutte le mani alzate. Se non hai alzato la tua mano, allora io ti voglio dire che Gesù è venuto e continua a cercarti perché vuole salvarti. Gesù ti cerca e ti salva. E solo lui lo può fare. Come l'ha fatto con Zaccheo, oggi lo vuole fare con te. Che tu non lo conosca e oggi vuoi aprire il tuo cuore a lui, o che tu lo conosca e magari vivi con Gesù da tanti anni. Però la notizia è questa: Gesù ogni giorno ci cerca. Ogni giorno vuole essere trovato da te, l'abbiamo detto, avviciniamoci a Lui e Lui si avvicinerà a voi. Gesù ogni giorno ti sta cercando e ogni giorno ti vuole salvare, vuole completare la salvezza che tu già hai per grazia. Ma Lui ti vuole salvare da tutti quei pensieri negativi, da tutte quelle emozioni negative, da tutto il desiderio che tu hai di peccare, che tu hai di disubbidire a Dio. Dio vuole salvarti da quello. Per questo messaggio, Zaccheo, non rappresenta solo le persone che non conoscono Gesù e hanno bisogno di salvezza, ma rappresenta ognuno di noi, perché tutti quanti noi siamo cercati da Gesù e tutti quanti noi abbiamo bisogno di abbracciare, di crescere sempre di più in quella salvezza che è per fede e per grazia nel nome di Gesù. Sì? Quindi perché è venuto Gesù? Per cercare e per salvare. Sì? Sì. E qui ci troviamo all'inizio della storia, no? Abbiamo Zaccheo. Zaccheo, che ci dice il verso 1, era il capo dei pubblicani ed era ricco. Abbiamo 2 cose, 3 cose che sappiamo di questo uomo: il nome, Zaccheo, e poi la sua professione, e poi il suo conto in banca. Tutto quello che serve sapere di una persona in realtà. No, scherzo. Lui era capo dei pubblicani ed era ricco. In altre parole, la Bibbia ci sta dicendo che Zaccheo era un ladro, e non solo un ladro pure ricco, che era bravo a fare il suo lavoro. Sapete, era un esattore delle tasse, e gli esattori delle tasse nel primo secolo, ai tempi di Gesù, erano coloro che lavoravano per l'impero romano, che era un impero che aveva il governo e il potere su Israele, e il loro lavoro era togliere le tasse, togliere i soldi al loro popolo nativo, al popolo al quale appartenevano, e dare questi soldi all'impero tiranno, all'impero estero. Questo era quello che faceva un ordinario esattore delle tasse. Ora Zaccheo era il capo, era il boss, comandava un po' tutto, aveva fatto carriera. Cioè lui era così bravo perché più soldi prendeva dal popolo, più magari ne riteneva per sé, dava una parte al popolo, all'impero romano, e poi il suo guadagno era quello che si metteva in tasca lui. Questo era quello che facevano, questo è il tipo di persona di cui stiamo parlando questa sera. Era un peccatore Zaccheo. La canzoncina non me lo diceva questo. Io avevo un'idea ben diversa di Zaccheo. E dentro di me c'era questo, mi sentivo quasi male per lui, perché era basso. E poi vabbè, cioè, non mi sembra proprio il caso di ridere così. Poi arriveremo a quel punto. Però mi sono sentita sempre un po' male per Zaccheo. E invece la Bibbia dice che era un peccatore. Cioè lui non si faceva scrupoli a fare del male alla gente. Lui non si faceva scrupoli a mentire, a imbrogliare, a rubare, a sentirsi superiore, a sfruttare le persone. Non si faceva nessuno scrupolo. Questo era il suo lavoro ed era ricco perché riusciva bene nel suo lavoro. In altre parole, Zaccheo rappresenta lo stereotipo di persona che un po' ci fa indietreggiare, che un po' ci fa alzare il sopracciglio e dire, sì, Gesù sì, può salvare tutti, ma per questa persona c'è bisogno di tanta preghiera. L'avete mai sentita questa frase? Come se avesse senso questa frase. Zaccheo era quel tipo di persona che ci fa un po' ribrezzo. Quel tipo di persona che noi ci sentiamo superiori a lui. E che pensiamo magari non vale la pena neanche proprio di parlare di Gesù a una persona così, a una persona del genere, perché lo rigetterebbe. E noi così vogliamo proteggere Gesù, quindi non vogliamo neanche parlarne. Forse sei tu, questo Zaccheo, che dici, Noemi, io sono anche peggio di quello che hai descritto. Io sono anche peggio di Zaccheo. E quindi Gesù non può fare nulla per me, perché ho superato il confine, ho esagerato. Gesù ama quelli buoni, quelli come te, che predicano. Non come me, che rubano, che dicono bugie, che tradiscono la moglie, che tradiscono il marito, che si approfittano dei figli. Ormai è troppo tardi per me. Oppure sei dall'altra parte e dici, no, io sono come Zaccheo, però come lui non ho bisogno proprio di nessuno. So bene, c'ho i soldi, c'ho la carriera, c'ho una bella famiglia, non rubo, non uccido, dico ogni tanto una bugia bianca, per cui il mio curriculum è abbastanza a posto. Non ho bisogno di essere salvato. Salvato da che cosa poi? La mia vita sta a posto. Bene, io ti voglio dire che tu ti trovi in una categoria o in un'altra. O se tu sei come questi farisei che incominciavano a mormorare perché Gesù si stava sporcando le mani perché si era invitato a casa di Zaccheo. Se ti senti un po' superiore, se non vivi quella passione nel condividere Gesù, se non ti rendi conto dell'urgenza che c'è nel predicare il Vangelo anche a coloro che sembrano così distanti, allora questo messaggio è per te. Questo messaggio è per te. Dio vuole dirti qualcosa di molto importante oggi e vuole dirti che non c'è peccatore di serie A o peccatore di serie B. La Bibbia in nessun libro ci presenta una classificazione, diversi livelli di peccato. Non esiste. Tutti i peccati sono ugualmente malvagi davanti agli occhi di Dio. Ma allo stesso tempo tutti i peccatori sono ugualmente amabili e salvabili da Dio. Lo ripeto, tutti i peccati, che tu tradisca tua moglie o che tu dica una bugia bianca ogni tanto, tutti i peccati sono malvagi davanti a Dio. Creano distanza tra l'uomo e Dio. Ti mettono nel bisogno, nell'urgenza di essere salvato perché da solo non puoi salvarti. Tutti i peccati sono uguali davanti a Dio, ma tutti i peccatori sono ugualmente amabili e salvabili. Dio non solo può, Dio vuole, Gesù vuole salvarci. Amen? Proprio come è successo a Zaccheo. Zaccheo era lì e sapeva che Gesù sarebbe passato da un momento all'altro e non poteva vederlo a motivo della folla perché era di piccola statura. Allora corse avanti e salì su un albero perché doveva passare di lì. Verso 3. Zaccheo qui voleva vedere Gesù. Voleva vedere Gesù, era curioso. Voleva vedere Gesù. E perché voleva vedere Gesù? Perché lui era un giudeo. Sono stata a pensarci, lui era un giudeo e quindi per tutta la sua vita aveva sentito parlare che ad un certo punto sarebbe arrivato un Messia, sarebbe arrivato colui che avrebbe realizzato tutte le profezie del Vecchio Testamento e si diceva, correva voce che Gesù era quel Messia. Tu figurati se Zaccheo si doveva perdere l'occasione di vedere con i suoi occhi chi era questo Messia, chi era questo Gesù. Gesù qualche momento prima a Gerico stesso aveva ridato la vista a un cieco. Gesù faceva miracoli, era famoso, era conosciuto, attraeva le folle perché poteva cambiare le vite delle persone. Gesù era uno che attraeva, sì, era attraente, faceva numero. E Zaccheo voleva vedere chi fosse, voleva rendersi conto chi fosse questo Gesù, di chi fosse questo Gesù. E quindi era curioso. E però, oltre ad essere curioso, ahimè, era anche basso. E qui non poteva ad un certo punto, perché la folla era così grande che Gesù non lo poteva, non aveva neanche la speranza, poverino, di vederlo, perché era proprio basso. E non so se mai ti è capitato, certamente a te Damiano no, però mi hanno dato una merendina. Quando sei al cinema o ad un concerto, ok? E tu sei lì e vuoi vedere il tuo cantante preferito. E se lì sei andato e hai pagato un biglietto per vedere questo cantante, non sto parlando di esperienza personale. Lo vuoi vedere questo cantante? Eppure tutte le persone più alte di te ti sono davanti. Un mare di persone più alte di te ti è davanti. E quindi non lo puoi vedere, però tu lo vuoi vedere, proprio come Zaccheo. E davanti a questa curiosità, Zaccheo è diventato creativo. È diventato inventivo, cioè ha usato tutto quello, ascoltate bene, ha usato tutto quello che era a sua disposizione per soddisfare la sua curiosità. La curiosità ti porta a fare cose fuori dall'ordinario. Fuori dall'ordinario, questo era uno che aveva autorità, che aveva una reputazione da salvare, e si è arrampicato come Mowgli. Sapete che Mowgli? Ah, non poco. Mowgli, il libro della giungla. Vabbè. Si è arrampicato su un albero, una persona adulta, con il suo proprio status. Si è arrampicato su un albero perché era curioso di vedere Gesù. E chiesa, forse noi non possiamo prendere tanto esempio da Zaccheo su tanti fronti. Non c'è proprio di grande esempio, era ladro, insomma, non è che... Però la sua curiosità ci insegna molto. E quello che lui ha fatto, spinto dalla curiosità, ci deve essere di sprono. La domanda è: quanto curioso sei di vedere Gesù nella tua vita? Se tu non conosci Gesù, allora quanto curioso sei di renderti conto se questo Gesù è vero che è vivo o meno? Se tu invece conosci Gesù, quanto curioso sei di conoscerlo di più? Di essere trasformato di più? Di cibarti di più della sua parola? Quanto curioso sei? La curiosità ti porta a fare cose fuori dall'ordinario. Ora, io non ti sto invitando ad arrampicarti su un albero, perché sarebbe un po' ridicolo. Però davanti alla curiosità di conoscere Gesù, hey, non c'è mancanza di tempo che tenga, per esempio. E allora tu leggi la Bibbia, preghi perché vuoi conoscere Gesù e te lo ritagli, te lo inventi quel tempo. Quando vai in bagno, quando stai lavando i piatti, mentre ritorni dall'aver accompagnato i tuoi figli a scuola, al lavoro, durante la pausa a pranzo, ti inventi tutti i modi possibili e immaginabili perché hai l'opportunità e soprattutto hai la curiosità di conoscere di più chi è Gesù. Davanti a una curiosità sana di conoscere chi è Gesù, non c'è soddisfazione, non c'è staticità, non ti basta mai, perché Gesù è così grande, perché Gesù è così santo, perché Gesù è così incredibile che ti rendi conto che hai bisogno di conoscerlo di più e non ti basta mai. E allora venire un culto la domenica, ma no, ne vengo a tutti e due, anzi facciamone un terzo perché ho bisogno di conoscere di Gesù. E allora al gruppo, ma allora facciamoli tutte le settimane questi gruppi per cortesia, perché non posso aspettare la settimana di pausa, voglio conoscere di più Gesù attraverso la comunione con i fratelli e le sorelle, attraverso lo studio che possiamo fare insieme della parola di Dio. Quando sei curioso di Gesù, non ti basta il messaggio che puoi ascoltare qui la domenica, non ti basta il corso di consolidamento, non ti bastano le nozioni, vuoi saperne di più, e allora leggi di più la Bibbia, e allora compri più libri, allora ti compri un dizionario biblico, ti compri tutto quello che può aiutarti a conoscere di più Gesù. Ecco, questo silenzio è un po' intimidatorio, devo dire. Siete d'accordo? Quanto curiosi siamo di conoscere Gesù? 10%? 50%? 70%? 70%? Chi offre di più? Chi offre di più? Offriamo di più! C'è tanto da conoscere. Siamo curiosi come Zaccheo lo era. E Zaccheo non è che voleva vedere Gesù perché si rendeva conto che aveva bisogno di essere salvato. Salvato da che cosa? Dai suoi soldi? Dalla sua fama? Dal suo lavoro che gli piaceva tanto? No, no, no. Lui voleva solo vederlo. E allora, anche se tu pensi di non aver bisogno di niente, che Gesù non ti può dare niente, ehi, sii curioso. Tanto male non ti può fare. Apri il tuo cuore a Gesù. Chiedigli: ma è vero quello che ho sentito? Puoi fare davvero, hai davvero da offrirmi qualcosa? E poi vedrai che sarai tu ad offrirgli la tua vita. Siamo d'accordo? Sì? E allora arriviamo al punto clou della storia. Zaccheo, curioso, basso, poverino, si arrampica su un albero, voleva vedere Gesù. Adesso Zaccheo è sull'albero e riesce a vedere più o meno Gesù. Riesce a vedere, quindi è abbastanza soddisfatto, però non ha neanche idea di quello che gli sta per succedere. Gesù qui è attorniato da centinaia, boh, forse migliaia di persone, e sta camminando, e sta parlando, e sta facendo miracoli, si sta facendo conoscere. E poi ad un certo punto dove si ferma Gesù? Sotto l'albero di Zaccheo. E Zaccheo già me lo vedo. Ma che fortunato che sono! Sono un ladro, sono ricco e sono pure fortunato. Gesù, tra tanti alberi, si ferma proprio sotto il mio. Allora oggi deve essere proprio il mio giorno fortunato, lo poteva vedere proprio da vicino. Ma la storia non finisce qui. Gesù non solo si ferma, lo chiama per nome. E poi si autoinvita a casa sua. Chi dice che autoinvitarsi è un peccato? Io lo faccio sempre, l'ha fatto Gesù. Segue il suo esempio alla lettera. Gesù fa tre cose. Si ferma sotto l'albero di Zaccheo. Vabbè, non è che l'aveva comprato. Si ferma sotto l'albero sul quale c'era Zaccheo. Lo chiama per nome, lo vede e lo chiama per nome e poi va a casa sua. È interessante come il pastore oggi sentiva fortemente di dirti: ehi, Gesù ti vede e Gesù ti chiama per nome, proprio come ha fatto con Zaccheo migliaia di anni fa. È incredibile, e non perché Gesù non sia creativo, ma perché il bisogno è sempre quello. Noi abbiamo bisogno di essere visti da Gesù, di essere chiamati per nome da Gesù e di essere invitati, o di invitare Gesù nella nostra vita. Questo rimarrà sempre il bisogno dell'uomo, perché siamo stati creati per stare con Gesù, per crescere in Lui. Ma ritorniamo alla storia. Gesù si ferma sotto l'albero sul quale c'era Zaccheo. Una piccola parentesi. Gesù sceglie di fermarsi sotto l'albero, sotto Zaccheo. E Gesù non era molto impressionato, anzi non era per niente impressionato dal fatto che Zaccheo si era così tanto sforzato di arrampicarsi su questo sicomoro per vedere Gesù. Zaccheo non ha impressionato Gesù, non ha stupito Gesù. Gesù già sapeva che si voleva fermare sotto quell'albero perché voleva trasformare la vita di Zaccheo, perché era venuto per questo. Abbiamo incominciato con questo concetto: Gesù è venuto per cercare e per salvare. È questo che stava facendo con Zaccheo. E noi tante volte pensiamo che Gesù si fermi sotto il nostro albero, Gesù ascolti le nostre preghiere, Gesù ci benedica perché è impressionato da quello che noi facciamo per Lui. E allora che cosa facciamo? Ci adoperiamo. E allora vogliamo leggere di più, così Gesù è impressionato e magari ascolta le nostre preghiere. Allora serviamo di più in chiesa, ci adoperiamo di più perché vogliamo che Gesù si impressioni e benedica la nostra famiglia. Allora cosa facciamo? Cerchiamo di impressionare, di stupire Gesù con i nostri monologhi, con la nostra vita santa, perché vogliamo che poi Lui si impressioni e di conseguenza ci ami di più, di conseguenza ci possa guarire. Non è così, non è così. Tu non puoi fare proprio niente per impressionare Gesù, perché Gesù non ha bisogno di essere impressionato da te, perché è già follemente innamorato di te. Gesù non aveva bisogno di essere impressionato da Zaccheo, perché Dio si è fatto uomo per conoscere Zaccheo. Dio si è fatto uomo per guarire Zaccheo. E come lo fa per guarire lui? Lo fa per guarire te. E quindi se proprio vuoi leggere di più, fallo perché vuoi conoscere di più Gesù. Non per un debito che ti sei creato tu. Perché quel debito Gesù l'ha pagato. Perché non ti devi sentire che hai bisogno di impressionare Gesù affinché Lui ti possa amare. No, Gesù è venuto, è sceso dal suo trono perché ti ama. Perché c'era un debito da pagare e Lui l'ha pagato per te e per me. Che bella notizia che è questa! Gesù ha scelto di fermarsi sotto quell'albero e Gesù sceglie di salvare la tua vita, di amare la tua vita. di perdonare i tuoi peccati, non perché te lo meriti, non perché sei bravo e dici, io sono stato bravo, quindi Gesù mi ha perdonato. No, no, perché non saremo mai bravi abbastanza. Quindi Gesù ha scelto di fermarsi sotto quell'albero perché ti conosce il tuo nome. Allora qui Zaccheo, vedete l'ironia, qui Zaccheo si stava dando da fare per conoscere Gesù e poi ad un certo punto Gesù si ferma, lo chiama e Zaccheo si rende conto che Gesù già lo conosceva, già lo amava, già era completamente disposto a cambiare la sua vita e Zaccheo neanche sapeva che cos'è che doveva cambiare nella sua vita. Questo è il nostro Gesù. Questo è il nostro Gesù, non ti dimenticare che tu e io siamo nella situazione di Zaccheo. Si ferma, ok? Si ferma, Zaccheo è sull'albero e poi si sente chiamare. Zaccheo, scendi giù. Chissà se ha cantato una canzoncina Gesù, non si sa. Zaccheo, scendi giù, Zaccheo. Si è sentito chiamare per nome, Zaccheo. Zaccheo era odiato e disprezzato dalle persone che lo circondavano. Chi amerebbe mai un ladro? Chi amerebbe mai una persona che sfrutta per guadagnare le proprie ricchezze? Forse lo chiamavano, ma certamente non per nome. Gesù qua si ferma. Zaccheo, io ti conosco. Zaccheo, tu sei mio figlio. Il tuo nome non mi è nascosto. E Zaccheo significa letteralmente, indovinate un po', uomo giusto, uomo puro. Gesù sotto l'albero, ehi Zaccheo, scendi, ehi Zaccheo, uomo giusto, scendi. Uomo giusto, a un ladro, a un peccatore, uomo giusto. Ma forse Gesù si era proprio sbagliato. Ehi Zaccheo, scendi. Gesù lo stava chiamando per nome. Non è un caso. La donna samaritana come si chiamava? Gesù non l'ha chiamata per nome. La donna dal flusso di sangue è un po' sfortunata perché la conosciamo proprio con questa dicitura. Donna dal flusso di sangue. Però c'aveva pure lei un nome. Ma non lo sappiamo, Gesù non l'ha chiamata per... sapeva il suo nome, magari... Più in là l'ha chiamata per noi, ma noi non lo sappiamo, non c'è scritto. Qui c'è Zaccheo, scendi, uomo giusto, uomo puro, scendi. Gesù stava chiamando Zaccheo non per quello che aveva fatto, non per chi era stato fino a quel punto, ma Gesù stava chiamando Zaccheo per quello che lui poteva diventare in lui. Dopo averlo conosciuto, dopo aver mangiato con lui, dopo averlo accettato nella sua vita, Gesù stava chiamando profeticamente Zaccheo e lo fa con te. Io non lo so che nome ti è stato attribuito, non lo so che nome ti sei tu stesso attribuito, ma Gesù ti chiama per quello che davvero sei. Per quella che è la tua vera identità, e la tua vera identità la scopri quando sei un tutt'uno con Gesù, quando sei un tutt'uno con Dio, il tuo creatore. Forse il tuo nome è depressa, Gesù lo vuole cambiare quel nome. Forse il tuo nome è ladro, tu lo sai, ma Gesù vuole, può cambiare. Non deve essere sempre così. Non è perché siccome è sempre stato così, deve continuare. Gesù cambia la storia. Come l'ha cambiata con Zaccheo, la vuole cambiare con te. Zaccheo, uomo giusto, scendi giù. Scendi giù. Voglio fermarmi a casa tua. Gesù si ferma, vede, chiama per nome e poi si autoinvita a casa di Zaccheo. Ed è interessante perché tutti i verbi nella storia, fino a questo punto, sono tutti un po' verbi di movimento, no? Attraversare, correre, salire, cercare, passare. E qui Gesù cambia un po' il tono della storia. Qui Gesù dice, Zaccheo, mi voglio fermare a casa tua. Voglio rimanere a casa tua. Quando Gesù viene nella tua vita, viene per restarci. Viene per dimorare. Viene per abitare a casa tua. L'abbiamo sentito oggi. Gesù ci ha fidanzati a Lui, non che ci ha dato l'anello per poi dire, ma vediamo se ti sposo o meno. No, no, no. Gesù ci ha fidanzati a Lui perché possiamo stare sempre per l'eternità con Lui. Gesù dice a Zaccheo, io voglio fermarmi a casa tua. Gesù vuole dimorare nella tua vita. Che tu lo conosca oggi per la prima volta o che tu lo conosca l'abbia conosciuto da 10 anni, Gesù vuole stare con te. Fermati. Passa del tempo con Lui. Basta correre. Basta salire, attraversare. Basta. Fermati. Perché Gesù vuole stare con te. Vuole abitare con te, in te. Io darei tutto, e stiamo concludendo, io darei tutto per sapere che cosa ha detto Gesù durante quel pranzo, se era un pranzo, non lo so, forse un brunch, non lo so. Perché un miracolo è successo, perché un ladro si è trasformato in una persona onesta. Perché un criminale ha detto io do tutto, un criminale si è indebitato, ha detto io do tutto ai poveri, basta, non voglio niente, voglio cambiare, non voglio più avere niente a che fare con quella vita, voglio cambiare, incomincio da zero, incomincio con te Gesù. E se ho defraudato qualcuno, 4 volte tanto. La sapeva la legge Zaccheo, la sapeva la legge. È cambiato, tutto ad un tratto. Cioè, se proprio leggete, c'è scritto ed essi mormoravano perché Gesù era andato con un peccatore. Poi verso 8, ma Zaccheo disse a Gesù. Cioè, sembra che proprio manchi qualcosa. E io lo so perché manca qualcosa. Non è un caso, secondo me, che la Bibbia, che la storia non ci dica parola per parola quello che Gesù ha detto, perché se assomigliate un po' a me, io avrei trasformato quel discorso in un programma, in un corso, un nuovo corso alla Zaccheo. L'avrei trasformato in dei punti, l'avrei trasformato in una scaletta. Allora, se voglio essere trasformata da Gesù, devo fare questo, questo, questo, devo ascoltare queste, queste, queste parole. Allora, se voglio condividere Gesù con qualcuno, devo dire quello che Lui ha detto. Devo dire che devono restituire i loro, devono pagare i loro beni, devono restituire quello che non appartiene a loro, devono cambiare, devono dire ciao alla vecchia vita. Però Zaccheo non è stato cambiato da un principio biblico. Zaccheo non è stato cambiato da una serie di cose che doveva fare per essere accettato da Gesù. Potenzialmente Zaccheo forse non è stato neanche cambiato dalle parole che Gesù ha potuto dire. Non lo sappiamo, ma una cosa sappiamo: Zaccheo è stato trasformato dalla presenza di Gesù a casa sua. Non gli è servito servire tutti i 10 punti che Gesù magari aveva in serbo per lui. Stava davanti a Gesù. Stava davanti a Dio carne ed ossa. Ed è rimasto. Ha abbracciato la presenza di Gesù. L'ha invitata a casa. Hanno cenato insieme, probabilmente Zaccheo ha parlato tanto, non lo so, io mi rivedo molto in Zaccheo, sarà che sono bassa, forse parlava quanto me, non lo so. Avrà parlato tanto e magari Gesù l'ha ascoltato tutto il tempo e Zaccheo ha detto, mamma mia, ma c'è qualcosa di diverso in questa persona, perché a me nessuno mi ascolta, forse solo i miei servi mi ascoltano, o forse solo le persone che hanno paura di me mi ascoltano. Ma c'è qualcosa di diverso in questo uomo. Lui è davvero interessato a me. c'è la verità in questo uomo. E allora sai che faccio? Cambio vita. Shbam! Cambio vita. Incomincio a seguire Gesù. Quando sei alla presenza di Gesù, tu non puoi rimanere lo stesso. Se è da un po' di tempo che sei lo stesso, che pensi le stesse cose, che senti le stesse cose, che fai le stesse cose, allora vuol dire che ti devi dare una calmata e devi stare alla presenza di Gesù ed essere trasformato da Lui, perché Lui non solo può, Lui vuole, perché è sempre stata la sua missione cercarti, salvarti e amarti, così che tu possa amare Lui, così che tu possa adorarlo, così che tu possa servirlo, non per obbligazione, ma perché è l'unica cosa che dà un senso alla tua vita. Siamo tutti degli Zaccheo e tutti abbiamo dei Zaccheo nella nostra vita. Tutti abbiamo delle persone che sono molto distanti da Gesù. Allora, come ti stai approcciando a loro? Questo messaggio è un po' che ha due livelli, uno per te e uno per le persone che ti stanno attorno. Come stai parlando di Gesù? A chi ha bisogno di Lui? Alzi il sopracciglio? No, ha troppo peccato. Boom. È troppo peccato, no? Gesù, cioè, che cosa stai dicendo? Che il sacrificio di Gesù vale fino ad un certo punto? O forse stiamo giudicando. Io sono meglio di te. E quindi non mi sporco le mani. Come stiamo presentando Gesù a queste persone? Perché sapete, Gesù è vivo. Però è anche vero che Gesù non è più in carne ed ossa su questa terra. Ma la sua missione non è cambiata e la vuole completare attraverso la sua Chiesa, attraverso me e attraverso te. Allora, siccome la missione non è la tua, è di Gesù, lo devi fare a modo suo, amando le persone, non giudicandole, accettando le persone, non sentirti migliore, perché è detto tra noi, siamo davvero migliori. Sì, siamo migliori perché abbiamo Gesù nella nostra vita. E loro diventeranno ancora più migliori, si può dire, poi non lo so, più eccellenti di noi perché Gesù sarà nella loro vita. Questo è il perché siamo qui, per adorare Dio e per farlo conoscere. Allora, se tu sei Zaccheo perché non conosci Gesù, oggi puoi conoscerlo. Se tu sei Zaccheo perché conosci Gesù, ma vuoi conoscerlo di più? Oggi questa è la tua opportunità. Visto che conosci, perché un sé è retorico in questo caso, conosci tanti Zaccheo nella tua vita, puoi prendere la decisione, forse di cambiare il tuo atteggiamento, perché c'è quell'omosessuale che ha bisogno di Gesù, perché c'è quella prostituta che ha bisogno di Gesù, c'è quel ladro che ha bisogno di Gesù, c'è il tuo datore di lavoro che non ti paga da 3 mesi, che ha bisogno di Gesù, c'è quel tuo amico che ha cercato di venderti droga, che ha cercato di farti sballare, che ha bisogno di Gesù, c'è quella tua amica che sembra aver tutto nella vita, bellezza, vestiti, carriera, successo, ehi, ha bisogno di Gesù. E tu sei le mani e i piedi di Gesù, sei la sua bocca. Come ti stai approcciando a queste persone? Con amore? Allora fallo di più. Con giudizio? Chiedi a Gesù la forza per poter essere davvero la risposta, per poter dare la vera risposta. Che ne dite? Siete d'accordo? Quanti Zaccheo stanno qui? Tanti Zaccheo. Per un motivo o per l'altro, siamo tutti Zaccheo. A maggior ragione dobbiamo amare, incondizionatamente. Aspetta, che l'ho scritta bene questa frase. Però adesso non me la ricordo, che mi sto emozionando un po'. Potremo amare di Zaccheo nella nostra vita solo ricordandoci che tutti siamo degli Zaccheo, con peccati diversi, ma amati dallo stesso Dio. Sì? Che bella notizia. Perché non ci alziamo in piedi? Cominciamo a riflettere su queste parole. E tu sai la decisione che devi prendere. E il pastore fra poco ti darà l'opportunità di far entrare Gesù nel tuo cuore. E potenzialmente la tua vita cambierà. Però lasciate che preghi per voi. Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché tu non ti sei scandalizzato davanti al nostro essere distanti da te, ma tu ci hai amato per prima. Tu ci hai amato quando ancora eravamo nel peccato più profondo e ci piaceva anche starci. E Signore Gesù, grazie perché ti sei fermato, hai scelto di fermarti sotto il nostro albero, ci hai chiamato per nome e sei venuto a mangiare con noi. Gesù, che noi possiamo fare la stessa cosa, come tu ci hai insegnato, che spinti da una curiosità urgente di conoscerti di più, possiamo anche predicare urgentemente la tua parola a tutti quelli che sono rigettati, odiati e emarginati nella nostra società, ma anche a coloro che sono famosi, che sembra che tutto vada bene, ma che hanno bisogno di te, Gesù. Grazie perché hai scelto di rivelarti nella nostra vita. Grazie, Gesù, perché ci hai salvato. Grazie, Padre, perché hai dato un proposito eterno alla nostra vita. E grazie perché ci rendi tuoi testimoni. Aiutaci, Gesù, a non giudicare, ma ad essere la risposta. Aiutaci, Gesù, a cercarti di più. Aiutaci a renderci conto che siamo anche noi degli Zaccheo, bassi, curiosi, e che sono stati trasformati da te per grazia. Amen.